Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Questo applauso è per voi che avete scelto essere e benessere. A proposito, voi quando applaudite battete la destra sulla sinistra o la sinistra sulla destra? Oppure battete le mani in modo simmetrico, verticale? Proviamo con un'altra domanda, perché magari non avete applaudito di recente e non potete farlo ora. Quando incrociate le dita delle due mani, qual è il primo pollice che vedete, destro o sinistro? E quando incrociate le braccia, quale mano esce? Fate un'altra prova, componete il numero verde 800 24 00 24, usate la destra o la sinistra. Intanto che provate o ci pensate, saluto il professor Giampaolo Perna, psichiatra, direttore scientifico e primario presso la Casa di Cura San Benedetto Menni ad Albese Concassano e professore dell'Università di Maastricht in Olanda e di Miami. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta e a tutti gli ascoltatori. Con che mano tiene la cornetta? Quella sinistra. Bene, quindi lei è mancino o è un falso mancino? No, in realtà sono un falso mancino, poi uso la destra, devo dire la verità. La predisposizione all'uso della mano, tra l'altro, non si nota nell'attività normale, perché in quel caso la persona tende a utilizzare la mano con cui è stata educata a lavorare, ma si vede in quelle situazioni automatiche di emergenza dove l'istinto, dove l'emozione prevale sulla ragione. Devo dirvi che talvolta fare il mancino è anche utile, è utile perché comunque stimola la parte controlaterale del cervello, quindi la mano sinistra stimola la parte destra del cervello, che è una zona del cervello molto importante per tutto l'aspetto creativo. Esiste uno studio del dottor Langer, un neurologo, che ha mostrato come tramite una risonanza magnetica bastino 2 settimane perché l'uso e il non uso di una mano, di un braccio, abbia degli effetti proprio a livello del cervello, della sua struttura, in maniera significativa. Quindi basta poco per far crescere o decrescere il nostro cervello. Quindi fare il mancino ogni tanto sveglia il cervello. Sì, direi di sì. Essere capaci di non farsi trascinare dall'abitudine imposta dalla società, dalle persone, ma cercare un po' di usare tutto il corpo, ma soprattutto la parte mancina, ci permette di svegliare l'altra parte del cervello, che è molto preziosa. Professore, nei decenni passati il mancino veniva rieducato e forzato ad usare la mano destra, quella della rettitudine. Ora, per fortuna, le cose sono cambiate, i bambini non vengono più corretti. Anzi, secondo numerose ricerche, il mancinismo potrebbe essere considerato anche come espressione di un vantaggio intellettivo. Ma io sono di parte. Lo so, sei mancina, quindi quello lo sappiamo. Anche Roberto però... Scaltritti, che è in regia la parte tecnica, è mancino e ci stiamo salutando, infatti, con la mano sinistra. Diciamo, è verissimo che i mancini non hanno alcun punto in meno dei destrimani. Ed è vero che alcuni studi suggeriscono che ci sono comunque delle persone con elevati punteggi e test di intelligenza. Devo dire che non tutti sono d'accordo sul fatto che vi sia una superiorità, però dei dati, o il dato forte è che le persone mancine sono molto abili dal punto di vista matematico, ci sono molti musicisti e molti sportivi, quindi il mancinismo ci dona delle caratteristiche molto particolari e molto utili. Quindi gli amici mancini all'ascolto gongoleranno, come sto facendo, e forse alcuni destrimani, rispondendo alle domande, avranno scoperto di essere un po' mancini, quindi tutto bene quel che finisce bene. Sì, la soluzione al piccolo test che mi hanno proposto è intuitiva, ovviamente il test dell'applauso fa sì che le persone che battono la destra sulla sinistra sono destrimani e viceversa, cioè dire che alcune persone sono particolarmente simmetriche nel battere le mani, in quel caso si può provare a rifargli il test appoggiando le due mani sulle gambe o su un piano e dicendo di tenere ferma una mano e muovere l'altra, da qui si capisce subito quale parte del cervello attiviamo prima. Il consiglio è comunque quello di usare entrambe le mani, usare le mani e tenere da conto, perché le mani sono anche uno specchio del nostro cervello. Professor Perna, grazie per essere stato con noi. Buonissima giornata. Grazie a voi e a tutti. Se sei un amico ti stringo la mano, se chiedi un aiuto ti tendo la mano e prendi la mano e dammi la mano. Usiamo le mani e intanto tiriamole fuori e guardiamole. Io, oltre a essere mancina, ho un altro vantaggio. Oggi ho qui in studio con me una grande esperta, la dottoressa Simonetta Odell, ortopedico al Gaetano Pini di Milano e specialista della chirurgia della mano e del polso. Buongiorno. Nicoletta, buongiorno. Allora, ne approfitto, le faccio vedere subito le mie mani. Visita guidata. Usi un po' le mie mani come una cartina e guidi gli amici da casa ad una autovalutazione. Siamo pronti? Eccoci. Eccole qua. Allora, Nicoletta, lei ha delle belle mani, ha un bel palmo ampio, in più ha delle mani e dei polsi magri e quindi se ci fossero delle neoformazioni e delle infiammazioni sono più facilmente individuabili, perché alle volte l'ADIP può anche costituire, come dire, una limitazione per fare una buona diagnosi veloce. Partiamo dal polso? Guardiamo il polso. Allora, lei ha un bel polso sottile, bello magro, l'osso sporgente che è l'ulna è ben in evidenza, ma è in evidenza anche nel polso controlaterale e quindi non c'è niente di patologico. Ci sono delle volte in cui quest'osso è più visibile, alle volte invece meno, ma non dobbiamo allarmarci se è uguale nei due polsi. Se invece dovessimo vedere che in uno dei due polsi è più gonfio, è arrossato, è dolente, allora questo è un buon campanello d'allarme per dei problemi magari di un'infiammazione generale che poi può andare a colpire le nostre articolazioni. Passiamo al palmo. Lei ha un bel palmo largo e questo è un vantaggio perché vuol dire che c'è più spazio per lo scorrimento dei tendini, sia estensori, dove però più raramente abbiamo dei problemi di spazio, ma soprattutto per i flessori, dove lo spazio di scorrimento è più limitato e dove c'è anche il famoso nervo mediano, che è quello che se viene compresso dà la sindrome del tunnel carpale. Quindi un palmo largo, diciamo che predispone meno ad un'eventuale insorgenza di una sindrome del tunnel carpale. Meglio avere le mani larghe, non meglio bucate le mani larghe, in queste sì. E andiamo alle dita. Lei ha delle belle dita, per fortuna sua ancora non deformate. Ci possono essere delle deformità a livello sia delle nocche e ancora una volta se sono rosse e dolenti potrebbe essere la spia di una infiammazione generale che colpisce poi le articolazioni, e poi invece abbiamo le articolazioni interfalangee, sia quelle prossimali che quelle distali, che con l'età possono diventare un pochino deformi, quei famosi bozzi che tanto spaventano e che tanto poco sono belli da vedersi e che colpiscono prevalentemente le donne, di solito dopo i 50 anni con la menopausa. Il pollice tra le dita è quello che ci dà più problemi. Il pollice tra le dita è quello che ci dà la possibilità della presa della pinza, quindi è il dito più importante di tutta la nostra mano. È quello che purtroppo più facilmente può andare incontro ad un'artrosi. L'artrosi della radice del pollice è molto invalidante perché il dolore ci porta ad avere delle limitazioni funzionali nei gesti quotidiani, che sono aprire una bottiglia, aprire la porta di casa con le chiavi, insomma tutti quei piccoli gesti che diventano dolorosi e che quindi ci limitano tanto nella quotidianità. Giriamo le nostre mani, guardiamo, osserviamo il palmo della mano, che cosa ci racconta? Il palmo della mano, abbiamo visto che nel suo caso è un bel palmo largo, quindi meno predisposto, abbiamo detto, al tunnel carpale, ma possono esserci alle volte dei nodulini a livello del palmo, delle piccole neoformazioni che sono la spia dell'esordio della malattia di Dupuytren, che è quella malattia che a volte in tempi veloci, ma più facilmente in tempi molto lunghi, può portare a creare dei cordoni di tessuto retraenti che fa sì che le dita non riescano più ad estenderci, e quindi un autotest è quello di appoggiare il palmo della mano al tavolo. Se riusciamo ad appoggiare completamente il palmo della mano e le dita non c'è nessun problema, se invece vediamo che le dita non riusciamo più ad estenderle completamente, allora forse è il caso di farsi vedere. Facciamo anche un test dell'efficienza della nostra mano. Proviamo a vedere nel aprirla e nel così chiuderla. Se avvertiamo magari qualche piccolo dolore localizzato in una delle dita oppure magari a livello del palmo. Beh, la cosa più frequente sono le dita a scatto. Alle volte chiudiamo le dita e non riusciamo poi più ad estendere il dito completamente se non accompagnandolo con l'altra mano e sentendo un vivo dolore. Le dita a scatto altro non sono che delle tendiniti, cioè delle infiammazioni dei tendini flessori, e sono una patologia molto comune. 800 24 00 24. Osservate le vostre mani, osservate il polso, il palmo, le dita. occhio al pollice, che è proprio il dito che ci dà spesso più problemi, e poi osservate anche il palmo. Provate ad aprire e a chiudere le mani e con il dito destro sinistro l'indice 800 24 00 24 componete il nostro numero verde, come ha fatto Marco che ci chiama da Como. Buongiorno Marco, benvenuto. Buongiorno a voi, sempre un piacere ascoltarvi. Grazie Marco. Allora, io sono mancino di mano e destro di piede. La mia domanda è: sono mancino? È un semi-mancino, perché sicuramente, come ci ha detto il professor Perna, il poter utilizzare la destra e la sinistra giova sicuramente al cervello. E ci sono dei mancini che non sono completamente... Ci sono anche gli ambidestri, ci sono persone che usano indifferentemente il lato destro e il lato sinistro del corpo, probabilmente perché riescono ad attivare i due emisferi del cervello in ugual misura. Professoressa Odella, le mamme mi scrivono: come fare a capire che il mio bambino è mancino? Quando si scopre il mancinismo? Ma dunque, anch'io ho un piccolino di 7 mesi e vedendo che prendeva gli oggetti con la sinistra anziché con la destra mi sono detta: forse è mancino. In realtà, approfondendo un po' la cosa, ho scoperto che è soltanto verso i 3 anni di età del bambino il periodo in cui si ha la dominanza di un emisfero rispetto all'altro, quindi bisogna aspettare un po' di tempo. Se il bambino è mancino, non correggetelo, e se non siete mancini provate a usare anche la sinistra. O se usate abitualmente la sinistra, provate a usare anche un po' la destra. Il nostro cervello ci ringrazierà. A 100 mani, a 4 mani, a mani nude, a piene mani, dare una mano, a portata di mano, allungare le mani, mani d'oro, mani in pasta, mani bucate, mani nel sacco, mani vuote, mani in mano. Ci sono tanti modi di dire, dottoressa Odella, sulle mani, e ve ne sono alcuni che dicono più di altri. Le mani che prudono, ad esempio, questa espressione che usiamo per avvertire che siamo sul punto di usarle, magari perché siamo infastiditi per la rabbia, capita, raccontano in verità un sintomo molto frequente, il formicolio. Alcuni lo riferiscono al pollice, altri alle dita in genere, altri ancora alle prime 3 dita. Vogliamo fare un po' di chiarezza e suggerire qualche consiglio? Certo, il formicolio alle dita delle mani è uno dei motivi più frequenti che spinge le persone a chiedere aiuto al chirurgo della mano e del polso, ma bisogna fare molta attenzione se è un formicolio che interessa tutte e 5 le dita, e allora forse è meglio recarsi da un vascolare piuttosto che da un ortopedico, o se è un formicolio localizzato alle prime 3 dita o alle ultime 2 dita della mano. Se è localizzato al pollice, all'indice, al medio, a metà dell'anulare, siamo di fronte alla famosa sindrome del tunnel carpale, cioè abbiamo una compressione del nervo mediano. 800 24 00 24. Se le mani prudono ai bambini, loro tendono a usarle, specie se sono piccoli. In linea con noi abbiamo il professor Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta. Ciao Alberto! Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. C'è un detto che dice: scherzo di mano, scherzo di villano, e sono tante le mamme, anche gli insegnanti, che lo usano con i loro bambini o alunni come invito a rinunciare ad essere maneschi. Ma anche se non vogliono, i bambini a volte proprio non ce la fanno a farne a meno. Perché Alberto, alcuni bambini sono così maneschi? Perché in realtà nel bambino, quando c'è un'attivazione emotiva spesso collegata a un'emozione che esplode come un vulcano, che è quella della rabbia, la cosa più semplice è trasformare quell'emozione in azione. Quindi l'emozione arriva dritta, si scrive nel corpo e usa il corpo per essere comunicata. Quindi il gesto di mano, a volte manesco e a volte villano, di un bambino è proprio un gesto che scarica la rabbia che il bambino non riesce a contenere, gestire e elaborare in altro modo. Per cui è necessario che l'adulto diventi un po' il contenitore della rabbia del bambino se vuole diminuire i giochi di mano. Come si fa? Ma guarda, già simbolicamente bisognerebbe prendere tra le proprie mani le mani del bambino, e lì dentro si fa sentire al bambino che io posso tenere la tua rabbia, in qualche modo la posso trasformare in qualcos'altro. Mentre tieni le sue mani puoi proprio dire al bambino: mamma mia come ti vedo arrabbiato, e questo significa che dai parola all'emozione che sta sentendo il bambino e conseguentemente permette al bambino di vedersi visto in quello che sente. L'altro aspetto è che l'adulto ha proprio la competenza e la potenza della sua relazione, quindi può proprio contenere le emozioni forti del bambino dicendo: sei troppo arrabbiato in questo momento, ti devo mettere in un angolino così scarichi la tua rabbia e quando torni fra noi non devi più fare uno scherzo di mano. E quindi è l'adulto che se assume su di sé il potere della rabbia del bambino e la regola. Alberto, però le mani possono anche così ricostruirsi nel gesto di pace. Facciamo pace un incontro tra mani, che magari fino al momento prima hanno dato pugni e sberle. Questo è un gesto che non si può fare nel momento in cui il bambino è nel pieno della rabbia, cioè quando è proprio acceso da questa emozione, ma dopo che lo abbiamo messo un po' a decantare in questo angolino che funziona un po' da congelatore, che raffredda tutto, farlo tornare indietro e fargli ricostruire con le sue mani un gesto che rigenera una buona relazione col bambino che magari ha sofferto della sua scarica di rabbia, è un gesto che fa molto bene a tutti e due e che soprattutto la volta successiva aiuta il bambino ad evitare di scaricare ancora così violentemente la rabbia che ha provato. Grazie ad Alberto Pellai per essere stato con noi. Quindi consigli per le mani di bambini maneschi: cercate di contenerli e afferrate le loro mani, tenetele nelle loro manine, nelle vostre, per dare voce, no, alle loro emozioni. Esatto. E poi fategli usare le loro mani nel modo più creativo possibile, perché quelle mani che costruiscono tante cose belle riescono poi più facilmente a non costruire gesti di rabbia. Stretta di mano è fondamentale, il suo biglietto da visita, stia a vedere. Stretta di mano rapida, decisa, sicura, è sintomo di sicurezza e autostima. Ma se non la sciolgo per tempo, diventa una stretta di mano infinita, sintomo di invadenza, capisce quello che intendo? Certo, però io questa stretta ce l'ho ormai da 30 anni, come faccio a cambiarla? L'idea di lavorarci, in questo ambiente si rischia di perdere tutto per una stretta di mano sbagliata. Quante volte è stato promosso da quando è qui? Mai. E questo non le dice niente? Piacere, il mio nome è Rogi, Silvano Rogi. No, mi spiace Silvano, ma non ci siamo neanche questa volta. No, ragazzi, vi prego, dovete darmi una mano. No, ma dicevo, in senso figurato, Geller mi tiene d'occhio, sulle mie tracce, quello fiuta la mia paura. Se io non imparo a stringere la mano, quello mi licenzia. Silvano, non è difficile, Tom Vail dice che la stretta di mano è il gioco di squadra che si fa rituale. 5 dita si concentrano contemporaneamente intorno ad uno stesso obiettivo come una squadra e incontrano un'altra squadra di altre 5 dita. Avanti, stringimi la mano come farebbe Tom Vail. Mano tesa verso il futuro e sorriso pieno di ottimismo. Non lo ascoltare, informale, disinvolto e figo. La stretta di mano, quando si dice che è un gesto che racconta tanto della persona, che offre tanti indizi, ma c'è qualcosa di più. Andiamo a sentire una ricerca che abbiamo letto su Salute 24, il nostro portale amico. La forza con cui si stringe la mano potrebbe essere un indizio di quanto a lungo si vivrà. Lo affermano i ricercatori dello University College di Londra in uno studio pubblicato sul British Medical Journal. I ricercatori hanno esaminato i dati clinici di migliaia di soggetti, la maggior parte over 60, scoprendo che quelli con la presa meno forte correvano il rischio del 77% più alto di vivere meno. Lo studio, che ha avuto il sostegno del Medical Research Council, ha individuato altri due indicatori di rischio: la lentezza nel camminare e la difficoltà a sedersi. Gli autori dello studio avvertono: attenzione, i rischi non sono solo della terza età, ma potrebbero essere rilevanti anche per i più giovani. Il test della stretta di mano, infatti, potrebbe avere delle ricadute anche a livello diagnostico, come strumento empirico di medicina preventiva. E se il futuro non si legge sulla mano, forse una stretta di mano in futuro potrebbe dirci quanto futuro ci aspetta. Allora voi provate ad afferrare una mano per stringerla, io afferrerò, intanto che andiamo a sentire i mercati, la mano della dottoressa Odella, così mi dirà se la mia è una stretta, una presa decisa, perché sembra che dalla stretta di mano si possa in qualche modo prevedere anche la durata della vita. Qua la mano, dottor Respizzi, buongiorno. Buongiorno, come va? Bene, la stretta di mano, forte, deve essere. Deve essere vigorosa. Vigorosa, perché è un indicatore, come dice la ricerca, di quanto potremo vivere. Assolutamente, sembra quasi una cosa ridicola, invece non è vero, perché è legata soprattutto anche agli altri parametri segnalati, cioè la capacità di non cadere piuttosto che di essere attivi nella vita, è un profondissimo indicatore, molto correlata a una condizione di salute generale. Questo strumento, questo test, la stretta vigorosa, che di solito viene anche provata con uno strumento proprio, un grip, è una specie di dinamometro che ci permette di misurare la forza, è esattamente correlata con la salute, quindi riesce a farci svelare quali sono i pazienti fragili, quindi i pazienti che più facilmente possono andare incontro a problematiche di salute. Quindi una stretta vigorosa esclude la fragilità della persona, perlomeno nella maggior parte dei casi, che sa che in medicina non c'è mai il 100% evidentemente. Andiamo a sentire Saverio, che ci chiama dalla provincia di Bari. Saverio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. La mia è una domanda che non ha ricevuto risposta nel corso di tanti anni, è una curiosità che io ho da tanto tempo e ho avuto sempre risposte evasive. E può sembrare banale, ma può darsi pure che possa interessare molti dei vostri ascoltatori, ed è questa: far scrocchiare le giunture delle dita, delle ginocchia o dei piedi, può portare delle problematiche? Anche dei piedi, Saverio, riesce anche a fare scroccare le dita dei piedi? Sì, complimentoni! Bene, mette a rischio le nostre articolazioni? È questo, Saverio, che lei vorrebbe chiedere? Esatto. Allora, dottoressa, facciamo un consulto. Dottoressa Della, dottor Respizzi, è una domanda che, come Saverio, ritorna, perché, dottor Respizzi, molti ascoltatori me l'hanno mandata via SMS al 349-238-6666. No, non è assolutamente niente di che, sono dei rumori articolari, di solito i rumori articolari, se non sono degli scrosci dovuti a un trauma, non sono nulla di grave. È chiaro che sono anche indice di una maggiore lassità dell'articolazione, forse non è il caso di insistere a farlo perché poi diventa un tic, però non ci sono di solito dietro questi rumori quadri patologici importanti, insomma. A proposito di articolazioni, dottoressa Della. E come dice il dottor Respizzi, alle volte ci sono questi scrosci articolari che invece sono legati a delle condizioni patologiche. Frequentemente abbiamo scrosci articolari quando c'è un'artrosi, quando c'è cioè un invecchiamento dell'articolazione. Però l'articolazione non solo scrocchia, come dice Saverio, ma è anche più gonfia, è anche deforme, quindi abbiamo segni e sintomi correlati a questo scroscio articolare. Attenzione però, se avvertiamo un cambiamento nella forma della nostra... Potrebbe anche non essere artrosi, ma potrebbe essere un'artrite. Quindi se questo cambio di forma delle articolazioni interessa quelle che comunemente chiamiamo le nocche, cioè le metacarpofalangee, allora dovremmo metterci di più in allarme. Se diventano gonfie, se diventano arrossate, se sono dolenti e poi spontaneamente dopo qualche tempo questo gonfiore, rossore scompare, non abbiamo avuto dei traumi, dobbiamo metterci in allarme e farci vedere da un reumatologo, perché potrebbe essere un'artrite. Dottor Respizzi, un consiglio allora per tenere la nostra stretta di mano bella vigorosa? Dunque, fare attività motoria, no? Indubbiamente una persona che sta bene, che è sana, che ha muscoli tonici perché fa attività sportiva, perché si muove, perché fa il nonno piuttosto che qualunque altra attività, è molto probabile che abbia una stretta vigorosa. Ed è questo semplicemente l'indice appunto dell'esclusione di una fragilità. Noi dobbiamo svelare le persone fragili perché sono le persone più a rischio naturalmente di avere problemi nella loro prosecuzione della loro vita. Dottor Respizzi, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Arrivederla, buongiorno a tutti. Noi andiamo a Brescia perché c'è Giuseppe che ci aspetta e poi torniamo a Milano con Pasquale. Buongiorno Giuseppe, benvenuto, grazie. Buongiorno Nicoletta, a lei e ai suoi ospiti. Ecco, io volevo sul tema dei mancini. Io mi definivo un mancino, un ambidestro più che altro, che molti anni fa usavo sia la sinistra che la destra, ma più che altro usavo la sinistra e poco la destra. Poi purtroppo mi è successo un incidente alla mano dove mi saltarono delle dita che mi furono riattaccate, ma non funzionavo più come una volta. Dopo tanti anni adesso vedo che tante volte, perché adesso uso la destra, non uso più la sinistra, tante volte mi succede che mi si bloccano le dita, completamente mi si bloccano, sono costretto con l'altra mano a sbloccare le dita e dopodiché mi si gonfiano in una maniera esponenziale. Questo vorrei sapere per quale motivo, ecco, come allora mai. Sicuramente l'incidente del nostro ma amico si bloccano Giuseppe. Le dita della mano destra o della mano sinistra? Della mano sinistra, quella che non uso più, diciamo, come usavo una volta, ecco, mi si bloccano proprio le dita e con la destra li devo sbloccare. Possono essere tanti motivi, può essere dovuto al fatto che magari non c'è un'anatomia perfetta e quindi l'utilizzo della mano sinistra porta più facilmente ad un'infiammazione dei tendini. I tendini, se si infiammano, si gonfiano, fanno più fatica a scorrere e quindi ha questa sensazione di blocco e deve aiutarsi allora con la mano controlaterale per poterla riaprire. Questo potrebbe essere una motivazione. Andiamo a Pasquale che ci chiama da Milano. Buongiorno Pasquale. No, è caduto Pasquale. Claudio dalla provincia di Monza e Brianza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sentivo la dottoressa prima che diceva per il formicolio le prime tre dita della mano. Io ho fatto le prove per sapere se era un problema di tunnel carpale, ma è risultato tutto negativo. Volevo sapere cosa devo pensare, cosa devo fare a questo punto. Allora, il formicolio di Claudio. Claudio, posso farle qualche domanda così mi oriento un così, pochino? Così intanto provate a rispondere anche voi da casa, perché siete in tanti che mi scrivete per raccontarmi il formicolio che ha avvertito o in un dito o nelle tre dita. Dottoressa. Lei il formicolio ce l'ha di giorno e di notte o soltanto di notte? No, di giorno e di notte e soprattutto di giorno quando per esempio sto appoggiato col braccio sinistro sul poggiolo del divano. E si informicolano le dita dal pollice al medio o l'anulare e il mignolo? No, soprattutto l'indice. L'indice è quello di mezzo che ha più sintomo di formicolio. Allora dunque potrebbe essere un problema da ricercare più a monte, perché noi sappiamo che i nervi che arrivano fino alla mano si formano a partire dalle radici che ci sono a livello del collo e quindi potrebbe essere una radicolite, cioè un'infiammazione delle radici al collo, oppure potrebbe avere magari anche un po' di artrosi che le dà una sintomatologia periferica. Perché se avvertiamo questo formicolio di notte invece che di giorno, che cosa significa? Se è notturno? Se il formicolio è notturno è tipico dell'esordio del tunnel carpale. Attenzione. E quindi è questo il momento di recarsi dallo specialista, perché vuol dire che il nervo inizia ad essere insultato. Se il formicolio è fisso giorno e notte, allora vuol dire che la patologia sta avanzando. Ed è importante intervenire in modo abbastanza precoce, perché alle volte il nervo mediano, quando per lungo tempo rimane compresso, non recupera completamente. C'è una ginnastica che possiamo suggerire ai nostri ascoltatori per evitare di avere poi problemi? Ma in generale sicuramente muovere... La pallina fa bene, quella pallina... La pallina antistress è una spugna naturale, sicuramente è una buona ginnastica ed è anche un'ottima ginnastica vascolare, quindi tiene le nostre mani sgonfie. Questo sicuramente può essere una buona ginnastica. In altri trattamenti quali possono essere? Evitare magari di usare troppo l'acqua fredda, che nel caso di artrosi sicuramente non fa bene, quindi coprirsi le mani con dei guanti quando si fanno i lavori domestici, sicuramente questo può essere un buon accorgimento. Morticia sta cercando di dirci qualcosa. Parla, mano. Smetti di balbettare. Che cosa? Caro, ci sta dicendo che c'è qualcuno alla porta. Oh, tu e mano. Che intesa perfetta. Italiani, popolo di eroi, santi poeti, navigatori e gesticolatori. Noi parliamo molto spesso più coi gesti che con le parole. Ci ha raggiunto in studio Marco Carminati, che scrive sul Domenicale, che tutti i sabati ci porta dentro i luoghi d'arte. Ciao Marco. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi vorrei fare con te un viaggio nei gesti, quelli che noi facciamo abitualmente, quelli che pensiamo magari inventati da noi o dagli americani, il classico che invece hanno un significato che si perde un po' nel tempo. Sì, bisogna guardare le opere d'arte, addirittura le opere d'arte dell'età tardoromana o del Medioevo, perché alcuni dei gesti che noi facciamo abitualmente o vediamo fare abitualmente si trovano in quelle opere d'arte. Per esempio, quando ci capita, speriamo che non ci capiti, ma lo vediamo nei film, nei telefilm, che il giudice inviti di dire la verità, tutta la verità, alzi la mano destra e dica lo giuro. Perché bisogna alzare la mano destra? Non basta dire lo giuro, perché quel gesto è un gesto che si trova appunto nella storia dell'arte, nelle opere d'arte, e indica che noi accettiamo l'autorità del giudice. Infatti noi vediamo molti sarcofagi dove Cristo sta evidentemente parlando e gli apostoli hanno tutti alzati la mano destra. Questo è un caso appunto che deriva dalla storia dell'arte. Poi naturalmente possiamo prendere in considerazione altri esempi. Per esempio una cosa che ci capita di vedere molto spesso, magari alla domenica, il Papa che benedice, che fa questo gesto alzando le tre dita e abbassando le altre due, e naturalmente invoca su di noi la benedizione divina. Questo gesto però non è un gesto di origine religiosa, addirittura è attestato in un sarcofago, anzi in un bassorilievo romano, dove questo gesto lo fa un medico. Che cosa significa? Che questo gesto vuol dire parlare per autorità, cioè tu parli. Sì. E infatti la parola benedire vuol dire dire bene, non stare zitto, fare un gesto silente, ma fare un gesto che dice bene, dice una cosa giusta. Quindi tu parli con autorità e quindi fai questo gesto della benedizione. Napoleone Bonaparte, che non era certo un filo papale religioso, a un certo punto della sua carriera, quando diventa imperatore, si fa fare una meravigliosa scettro di oro e sopra fa mettere la mano d'avorio della benedizione, perché anche lui parla per autorità. E cosa dice questo gesto a un medico? Ecco, un chirurgo della mano, la mano benedicente invece non dice bene, perché vuol dire che c'è una sofferenza del nervo ulnare che è talmente avanzata che non ci permette neanche più di estendere il quarto e il quinto dito. Quindi chiediamo alle persone che iniziano ad avere un formicolio al quarto e al quinto dito di venire dall'ortopedico un po' prima di arrivare ad avere una mano benedicente. Marco, il classico ok, diamo un indizio, perché vorrei che i nostri ascoltatori ci spiegassero, chiamando l'800240024, che cosa significa e soprattutto da dove deriva questo gesto che noi pensiamo degli americani. Dai un indizio, perché questo è il quizzettone di oggi. Certo, dunque l'indizio si trova nei dipinti. Ci sono dei santi del nostro Medioevo, del primo 400, che parlano e fanno questo gesto dell'ok. Ecco, che cosa può significare? Che cosa può significare? Intanto noi andiamo a dare qualche indicazione, magari per un piccolo problema, a Rosaria che ci chiama da Como e poi a Marina dalla provincia di Forlì. Intanto io vi do il tempo per pensare. 800240024. Rosaria, buongiorno da Como. Pronto, buongiorno. Buongiorno Rosaria. Allora, io ho avuto disturbi alla mano destra, ma adesso anche alla sinistra, soprattutto da 3-4 anni, al pollice. Prima andavo da un fisiochinesiterapista, molto bravo, mi metteva a posto. Ultimamente è diventato un po' più dolorante, per cui mi sono rivolta a uno specialista della mano che mi ha proposto di operare. Di contro, il fisiochinesiterapista mi ha detto di non operare. Più si sentono pareri, più peggio si entra in confusione. Quindi io sono entrata perché sono giovane, di non operare e andare avanti con integratori, con terapie della mano, cioè fisiochinesiterapia e con un tutore. Allora, la domanda di Rosaria, che giustamente è un po' confusa, perché più sentiamo cosa specialisti, che cosa si Quanti fa? Anni ha Rosaria? 52 e poi tra gli interventi, sono un insegnante oltre che casalinga. Quindi formicolio al pollice, ma gli interventi sono sempre necessari o si può temporeggiare? Dipende dallo stadio della patologia e da che patologia c'è. Che diagnosi le hanno fatto, Rosaria? Una rizoartrosi? Giusto. Ecco, dipende dallo stadio. In realtà oggi per la rizoartrosi abbiamo tantissime terapie, sicuramente le terapie del chinesiterapista sono valide, o possiamo avere delle terapie infiltrative con l'acido ialuronico che proteggono la cartilagine, tolgono il dolore, limitano l'infiammazione, quindi può procrastinare il trattamento chirurgico, o ci sono anche trattamenti chirurgici adesso validi, ce n'è di tantissimi tipi, abbiamo delle plastiche, abbiamo delle protesi, tutto a seconda dello stadio dell'artrosi in cui si trova. Quindi bisognerebbe vedere una radiografia per capire. Marco, ma il pollice entra anche nei quadri che, come ci stai raccontando, gesticolano? Beh sì, naturalmente ci sono molte indicazioni che riguardano le dita, ma in particolare, per esempio, nel mondo della retorica. Quando noi vediamo la figura di un retore, molto spesso questo retore gesticola. Parla, lo diciamo ancora oggi, a menadito, cioè argomenta tenendo le argomentazioni, era un aiuto, e anche il pollice serviva, così come serviva ai musicisti la mano intera per ricordare gli intervalli musicali. Noi abbiamo tanti codici miniati dove non c'è il pentagramma, ma c'è una mano con sopra segnate le note. Erano tutti giochi nelle quali rientra anche l'ok, per ricordare le cose. Ricordate il significato dell'ok, 800 24 00 24. Chissà se c'è qualcuno tra di voi che chiama il nostro numero verde per darci la soluzione, se no ci facciamo raccontare tutto da Marco Carminati. Mario da Napoli, buongiorno. Mario è caduto, oppure stiamo sentendo qualche rumore, ma penso che sia a casa. Mario? Non lo sentiamo. Dottoressa Odella, allora, qualche consiglio per le nostre mani. Sappiamo che gli anni in qualche modo le possono mettere in difficoltà. Soprattutto e che ci sono, noi donne. Ecco, e che ci sono, venivo proprio a questo, delle differenze di genere. Noi donne siamo un pochino più predisposte ad avere problemi alle mani. Qualche indicazione, abbiamo detto non utilizzate l'acqua fredda. Recarsi con una certa sollecitudine dal medico se iniziamo ad avere dei sintomi, perché oggi, come dicevo prima, anche per le artrosi non necessariamente bisogna intervenire chirurgicamente, ma ci sono tante terapie che possono essere fatte prima e che quindi possono spostare più in là l'intervento. I segnali da non sottovalutare, li abbiamo visti, sono il gonfiore, il dolore, e ecco, bisogna dire che il dolore del primo mattino al risveglio, quando ci si sente con le mani, come dicono i pazienti, un po' impastate, un po' legate, è un dolore tipico degli esordi dell'artrosi, e quindi con un po' di movimento poi la mano si scalda e va durante la giornata. Se non ci sono invece questi segnali, Marco, è tutto ok. Sì. Allora, io dalla regia mi stanno dicendo che non ha... forse c'è forse un ascoltatore, c'è. Vediamo se Giovanni, che ci chiama da Napoli. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. La lascio con Marco Carminati. Vediamo, sì, buongiorno. Che cosa ci risponde Giovanni. Ma io avevo letto una spiegazione della parola ok. In realtà, al rientro dalle battaglie, il capitano contava i soldati che rientravano, e se non era morto nessuno scriveva zero killed, cioè zero morti. Sì. E da questa è stata poi derivata. Marco, ma noi possiamo risalire ancora più indietro. Guardiamo le immagini di Bernardino da Siena, che fa l'ok, cioè sta argomentando sulle dita gli argomenti che deve trattare. Quindi la sottigliezza delle argomentazioni è l'ok. Siccome il primo dito che appoggia sul pollice è appunto l'indice, ecco che dice l'ok. È la sottigliezza dell'argomentazione. Nella pittura antica significato dell'ok moderno. Grazie a Marco Carminati e alla dottoressa Odella, voi che siete intervenuti, Roberto Scaltritti in regia la parte tecnica, Laura Vanossi che è tornata in redazione. Noi ci sentiamo domani. Buonissima giornata da Nicoletta.